Buonasera Chiesa. Infatti io quasi mi sono scordato come si fa. Quindi avete bisogno di pregare per me. Amen? Siete? Svegli, pronti per la parola? Non c'è niente come la parola predicata, lo dicevo anche stamattina. 5 anni fa abbiamo vissuto una transizione, è la parola in ultimamente in chiesa da noi, vero? Abbiamo vissuto una transizione 5 anni fa da locali bui, piccoli, uno molto scomodo anche. Ci siamo spostati qui in via Alberotanza ed è stato un cambiamento grande per tutti quanti noi, vero? L'abbiamo vissuto come un cambiamento importante per la nostra Chiesa. E io ho predicato un messaggio, al dire il vero, introducendo un libro e introducendo una serie, la serie sui Galati, beniamata serie. Ve la ricordate tutta? Sì, tutta, come tutta. Però ce la ricordiamo, è stato bellissimo viaggiare insieme attraverso la parola del Signore in maniera chiara e nitida, ha parlato ai nostri cuori. La mia premessa per quel messaggio fu questa. Tutto può cambiare, no? Avevamo cambiato locale e dissi tutto può cambiare e a volte qualcosa deve cambiare, perché se le cose non cambiano si va verso la morte. Quindi tutto può cambiare, a volte qualcosa deve cambiare. Due cose devono rimanere sempre. Per noi individualmente e come Chiesa, la fede nel Signore Cristo Gesù è il nostro essere radicati nella sua parola. Tutto può cambiare, ma la nostra fede in Cristo Gesù, il nostro essere radicati nella sua parola, non può cambiare. A prescindere da quello che viviamo, a prescindere da quella che è la nostra situazione, due cose devono rimanere, fratelli e sorelle, lo ripeto. Fede in Cristo Gesù è l'essere radicati nella sua parola. Ci troviamo davanti a un'altra transizione, forse più importante, forse più difficile, forse, guardate, davanti al cambiamento tutti reagiamo in maniera diversa, vero? Vi ricordate il locale? Mo, bellissimo, saremo comodi, spaccheremo tutto, sarà una testimonianza magnifica per la città, bellissimo. Altri dicevano, vabbè, ma chissà come va, noi siamo sempre stati là, sempre fra noi e noi, mo tutti ci vedranno, come andrà, come... La reazione al cambiamento è sempre diversa per ognuno di noi ed è normale che ognuno reagisce in maniera diversa al cambiamento. Tutto può cambiare. Qualcosa forse deve cambiare, due cose devono rimanere. La nostra fede in Cristo Gesù e il nostro essere radicati nella sua parola. Se queste due cose rimangono, fratelli e sorelle, i nostri giorni ci staranno migliori, ci staranno sempre davanti, sempre. Sempre davanti. Se noi rimaniamo radicati nella sua parola, se ci cibiamo da essa, i nostri giorni migliori ci staranno sempre davanti. E ci troviamo davanti a una transizione importante, di un cambiamento importante che ad alcuni di voi entusiasma e dice sì, finalmente cambiamento. Spero di no così, perché onoriamo il pastore, ringraziamo per quello che sono stati questi 40 anni. Il Signore l'ha usato in maniera grande e fantastica. Siamo quello che siamo e grazie alla sua grazia, alla grazia di Dio nella vita del pastore. Noi ringraziamo il Signore e il pastore e sua moglie per questo. È una cosa bellissima. E alcuni però dicono, no, ma mo dobbiamo cambiare. E chi verrà? Sarà quello? Sarà quello? No, speriamo che non è quello, se no... Tutto può cambiare. Alcune cose devono cambiare, ma se rimangono queste due cose, la nostra fede in Cristo Gesù, il nostro essere radicati nella sua parola, i nostri giorni migliori ci sono davanti. Come te individuo, credente, non credente, anche se non ci credi a questo, è la verità. Se ti radichi nella fede in Cristo Gesù e nella sua parola, i tuoi giorni ti staranno migliori, ti staranno davanti e non dietro. Per questo, questa sera, iniziamo un'altra serie. Vi piace? Stasera iniziamo la serie sui Salmi. I Salmi è un libro bellissimo, fantasmagorico e glorioso, a me piace, è uno dei miei preferiti, forse dopo i Galati, no, non posso fare così, è tutto bello, però i Salmi sono una cosa bellissima. E io prego che possiamo assaporare questa bellezza e abbracciarla completamente. Allora qui le battute partono a raffica. Perché dice, Gianlu, ci sono voluti tre anni, per fare 6 capitoli dei Galati. E quanti anni ci vorranno per fare 150 salmi? Siamo nelle sue mani, lui sa. Se io devo stare qui fino a quando ho 80 anni per arrivare al capitolo 150, e alcuni di voi potranno dire, io c'ero al primo, quando ha fatto il primo io c'ero, lo faremo, vediamo. Come il Signore ci guida, vedremo alcune cose questa sera dai salmi che mi guideranno anche nella scelta. Forse non li faremo tutti, però vedremo quello che il Signore ci guiderà a fare. Però prima che ci tuffiamo appunto nei salmi, preghiamo. Posso pregare? Preghiamo. Signore Gesù, veniamo davanti a te. E Padre, come Chiesa, siamo davanti a un cambiamento molto importante. E Padre, vogliamo dire che senza di te noi non possiamo. Padre, veniamo davanti a te e ci umiliamo perché senza di te noi non possiamo. Ma nella tua grazia, e se tu sarai alla nostra destra, Signore, i nostri giorni migliori ci sono davanti e non alle spalle. Padre, per questo noi, in questo momento, come Chiesa, confessiamo il nostro bisogno di te, il nostro bisogno della tua rivelazione nella nostra vita, Signore. Padre, io prego per coloro che in questo momento sono spaventati da questa cosa. Padre, parlagli attraverso la tua parola. Padre, che ogni paura possa essere spazzata via, ogni incertezza, ogni dubbio, e che, Padre, possano fissare il loro sguardo su di te, Signore, e far cadere ogni emozione nel posto giusto. Padre, io ti prego per quelli che sono entusiasti, hanno aspettative. Padre, io ti prego affinché tu possa rimpiazzare il loro entusiasmo con il tuo e le loro aspettative con le tue aspettative, Signore, attraverso la tua parola. Padre, noi veniamo davanti a te. Padre, vogliamo essere un popolo di veri adoratori impegnati per la tua gloria, Signore. Padre, vogliamo essere la tua sposa perfetta. Per questo vieni, Signore. Abbiamo bisogno di te. Padre, sei stato con noi fino ad ora e guardiamo con fiducia davanti al futuro, perché tu sei il nostro Dio e noi vogliamo onorare te. Padre, apri i nostri cuori adesso al tuo meraviglioso libro che è vita. Amen. Amen. Amen. I giorni nostri migliori ci stanno davanti se facciamo questo. E noi vogliamo fare questo. I Salmi sono, come dicevo, un libro bellissimo. È uno dei più grandi libri della Bibbia. Non solo del Vecchio Testamento, ma della Bibbia intera. È il libro che è stato citato di più da Gesù, cioè lui l'ha ripetuto di più nei suoi detti, e anche nel Nuovo Testamento, dagli altri autori del Nuovo Testamento, si guardavano indietro e hanno guardato al Vecchio Testamento. Forse il Nuovo Testamento ci sta dicendo da dove incominciare a leggere il Vecchio. Forse questa è l'indicazione. Il libro dei Salmi è una raccolta, praticamente. Non è come i Galati, che era un percorso, una cosa che si costruiva capitolo su capitolo. I Salmi sono una raccolta, ogni salmo è una poesia, un canto, ed è sufficiente a sé, sta in piedi da sé, fatemi dire così. Quindi il libro dei Salmi è una raccolta di 150 poesie o 150 canzoni. Che altro possiamo dire dei Salmi? Sono stati scritti in un arco di tempo di più di 1000 anni. Da Mosè fino al dopo l'esilio del popolo di Israele. Vabbè, poi andate a leggere a casa che significa. Comunque, più di 1000 anni, più di 1000 anni. Bellissimo, solo questo lo rende grande questo libro, vero? Più di 1000 anni, già riempie la bocca. Grandissimo questo libro. Gli autori sono, sentite un po' chi sono, udite, Davide, Mosè, Re Salomone, Asaf, i figli di Core e alcuni anonimi. Poveri sfigati, no, scherzo. Scherzo, alcuni anonimi. I salmi sono molto variopinti, sono molti diversi l'uno dall'altro, però ci sono più o meno 5 generi. Alcuni dicono che ce ne sono 150, alcuni che ce ne sono. Comunque in genere ci sono 5 generi di salmi, cioè 5 gruppi più o meno uguali di salmi. E questi sono i gruppi, o comunque i generi dei salmi. Il primo, di lode. Salmo 29, date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Questo è un gruppo. Un altro gruppo è il lamento. Salmo 13, fino a quando, o Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando nasconderai il tuo volto da me? Lamento. Regali, cioè da re e per re. Salmo 72 è un esempio. Oddio, dai i tuoi giudizi al tuo re e la tua giustizia al figlio del re. E il quinto, e il quarto, sono arrivato a quattro, sapienzali. Salmo 49, ascoltate popoli tutti, porgete l'orecchio abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri tutti insieme, la mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Questi sono quattro, il quinto in realtà è più un mix di alcuni di questi. Comunque, per non confonderci l'idea, diciamo così, ci sono quattro generi principali di lode, di lamento, per re e di sapienza. Ora, vi dico queste cose, forse vi sto annoiando un po' con questi dettagli, però queste sono buone indicazioni per come leggere e come interpretare per se stessi i salmi. Per esempio, quelli regali, cioè quelli scritti da re o per re, non so per te. Quante volte noi abbiamo letto e cantato, soprattutto io mi ricordo quando ero bambino, chiedimi, chiedimi, e ti darò nazioni. Chi la ricorda questa canzone, no? Invece, chiedimi, sì signore, io ti chiedo quella, io spa. È stato scritto per un re e per il re dei re, guardando al futuro, per Cristo Gesù. Il Signore non sta dicendo a te, chiedimi nazioni, lo sta dicendo a suo figlio, Cristo Gesù, chiedimi nazioni. Qui vedete quale differenza fa, però per chiudere qua, se no finiamo fra 120 anni, sono questi i quattro generi. Poi c'è l'ultima cosa che vorrei dirvi, importante, è la formazione del libro. Il libro è stato suddiviso a sua volta, quindi il libro dei Salmi è stato diviso a sua volta in cinque libri. In cinque libri diversi. Alcune traduzioni in italiano lo riportano questa suddivisione, altri no. La cosa importante è che chi ha messo insieme tutti i salmi, li ha ordinati in maniera precisa e voluta, li ha suddivisi in cinque parti per rispecchiare volutamente il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, la legge dell'Eterno. Per rispecchiare questa cosa e dire, guardate che tanto quanto quella è legge del Signore, lo è anche quella. Quanto ci sono le istruzioni di Dio in quel libro, lo sono anche qui. Quanto importante è quello? Tanto è importante questo. È una cosa molto importante. Però, dopo questa introduzione, che spero vi aiuti a leggerli meglio i salmi, dobbiamo dire due cose importantissime sui salmi. La prima cosa è che è poesia. La cosa più bella dei salmi è che sono poesia. E sono parole dell'uomo rivolte con emozioni, con sentimenti a Dio. Senti un po' tutti questi sentimenti, tutte queste emozioni. Amore. Salmo 1:18. Io ti amo, o Signore, mia forza. Scoraggiamento. Salmo 42. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Gioia. Salmo 9:2. Mi rallegrerò ed esulterò in te. Salmeggerò al tuo nome, o Altissimo. Paura. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Pace. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Dolore. Io sono misero e afflitto. Il tuo soccorso, Dio, mi porti in salvo. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. I salmi sono emozioni. E per questo noi li dobbiamo leggere, li dobbiamo pregare, li dobbiamo meditare, li dobbiamo memorizzare e li dobbiamo dire. Perché? Perché sono emozioni e per noi emotivi reclusi, come io sono un emotivamente handicappato, non sono capace di dire a mia moglie con parole quanto è brava, quanto è buona, quanto è bella, sono un po' impedito, passatemelo. Per noi impediti emotivamente, i salmi sono uno strumento che ci danno le parole. Quante volte sono andato ai salmi perché io non ce li avevo le parole e i salmi me le hanno date. Chi io in cielo al fuori di te? Non desidero altro se non te. Il mio cuore, la mia carne vengono meno, ma Dio è la parte mia in eterno. I salmi sono sentimento, i salmi sono poesie, i salmi sono parole bellissime che il Signore ci dà per esprimere la nostra lode e adorazione a Lui. Tutti i salmi, tutti i salmi, non solo quelli, gli alleluia salmi, no? Gli ultimi 5-10 capitoli, tutti i salmi, anche il lamento. Non mi si venga a dire, cioè, non ci si può lamentare, quando sei credente, sei figlio di Dio, non ti puoi lamentare. Leggilo e vedi, a dire il vero, il gruppo dei lamenti è il più grande nel libro dei Salmi. Ti vuoi lamentare, se lo fai col tuo cuore, con le tue parole, potrai sbagliare. Fallo coi Salmi, ti danno le parole giuste, ti danno i sentimenti giusti per andare al tuo Dio e lamentarti davanti a Lui. Non solo i lamenti, ma tutti questi sentimenti, tutti questi generi ci danno un modo per esprimere noi stessi a Dio. Tutte queste emozioni. I salmi sono il nostro libro di preghiere. È stato compilato una poesia dopo l'altra per darci le parole, per pregare a Dio nel modo giusto. Fratelli e sorelle, prendiamolo. Prendiamo preghiera dopo preghiera, prendiamola e preghiamola. È una cosa meravigliosa perché sono parole che il Signore ci ha dato per esprimergli i nostri sentimenti. Quindi, prima e più di tutto, i salmi sono poesia. Ma per una seconda cosa importantissima, sono parola di Dio. I salmi sono parola di Dio. Quindi non è solo emozioni, sentimenti che l'uomo rivolge a Dio, ma sono, come ho già detto, parola data da Dio all'uomo. Per questo si trovano nella Bibbia. Questa è parola di Dio. Cambia e trasforma la nostra vita. Il Signore ha messo i salmi in questo libro affinché tu ed io possiamo leggerli, studiarli e pregarli. Perché? Perché i salmi sono così fantastici? Perché non solo ci danno l'opportunità di esprimere i nostri sentimenti, ma mentre li esprimiamo con i salmi, i nostri sentimenti vengono plasmati, vengono trasformati, vengono adeguati, vengono aggiustati a quelli che sono i veri e giusti sentimenti secondo Dio. Perché è parola di Dio, ci istruisce, guida, diciamo così, no? Ci dà una mano a guidare nel modo giusto i nostri sentimenti. Quindi se hai paura, vai a trovare i salmi di paura e lascia che i salmi plasmino le tue emozioni. Se hai gioia, se hai dolore, qualsiasi cosa hai, lo troverai nel libro dei salmi. Vai ai salmi e lascia plasmare le tue emozioni da questo libro. È poesia, perché noi possiamo rivolgere i nostri sentimenti a Lui, ma è anche parola di Dio e plasma i nostri sentimenti, perché alcuni di noi non sono emotivamente handicappati. Alcuni di noi sono emotivamente dei razzi che sparano a mille. Io di qua, io sento questo e sono bravissimi con le loro parole. E loro hanno bisogno di essere guidati e condotti. Permettiamo ai salmi di far questo nella nostra vita, a voi vulcani emotivi. Permettete ai salmi di guidarvi. I salmi sono poesia, sono parola di Dio. E a questo punto arriviamo alle prime due applicazioni. E la prima la voglio fare in maniera speciale, in maniera importante, al gruppo di lode. Posso vedere dov'è il gruppo di lode? Per alzata di mano. Rivolgo questa parola a voi col cuore in mano. Avete una responsabilità grandissima di condurci come Chiesa ad adorare il nostro Dio, ad andare da Lui e esprimere i nostri sentimenti quando stiamo insieme. E quando stiamo insieme è potente in maniera particolare. Voi avete questo ruolo di guidarci in questo, col cuore in mano e con l'autorità datami da Dio. Io vi dico, fate tutto quello che fate con il libro dei Salmi. Quando provate, quando scrivete, quando cantate, quando suonate, quando state insieme, cibatevi del libro dei Salmi. Permettete a questi sentimenti di plasmare i vostri. Permettete a queste parole di plasmare le vostre parole, affinché potete portare tutti quanti noi nella direzione giusta. Col cuore in mano, mangiate, respirate, giorno e notte, vedremo dopo, i Salmi. Ve lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. E per tutti quanti noi, secondo incoraggiamento, per tutti quanti noi, preghiamoli, preghiamoli, preghiamoli, preghiamoli. È parola di Dio. Prendiamo i Salmi, fratelli e sorelle, leggiamolo, già anche molto praticamente, leggiamolo. E poi rileggiamolo e rileggiamolo ancora. Magari memorizziamo qualche frase, anche solo una. Oh, io lo faccio costantemente. Chi io in cielo fuori di te? Quello è il mio salmo preferito, fra virgolette. Chi io in cielo fuori di te? Non desidero sulla terra niente se non te. Il mio cuore, la mia carne, vengo meno, ma tu sei la mia parte in eterno. Prendiamo queste frasi, rendiamole le nostre preghiere e plasmeranno i nostri cuori. A prescindere dalla decisione che ti sta davanti, a prescindere dalla situazione che stai vivendo, a prescindere dalla transizione in cui ti trovi, vivi questo libro e permetti a questo libro di guidarti e plasmare i tuoi sentimenti. Amen? Preghiamoli, li preghiamo, li preghiamo. Beato l'uomo che... Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella strada dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. E su quella legge lui medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso i rivi dell'acqua, di cui dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce. Tutto quello che fa prospera. Non così l'empio. L'empio è come pula che il vento disperde. Per questo, l'empio non reggerà nel giorno del giudizio. È il peccatore nel consiglio dei giusti, perché il Signore conosce la via del giusto, ma la via del peccatore porta alla rovina. Questo è il meraviglioso Salmo 1. E a dire il vero, il Salmo 1, il Salmo 2, tutti questi due salmi, io ho quasi finito il mio tempo, però ci sono un sacco di cose ancora da dire, quindi statemi dietro. I primi due salmi fungono da introduzione a tutto il libro. Cioè non solo il Signore ha ispirato chi ha scritto Salmo 1, 2, 3, 4, 5, che magari non erano in quell'ordine, ma hanno ispirato chi li ha messi in questo ordine. È un libro fantastico. I primi due salmi fungono da introduzione a tutto il libro. Il primo salmo è un salmo sapienziale, cioè che dà sapienza. E in qualche modo il Salmo 1 vuole istruire su quello che sarà tutto il libro dei Salmi. Il Salmo 2 invece è un Salmo regale. E come tale, diciamo, dal re è una profezia, è una parola per il re, è una profezia per il re dei re, fatemi dire così. Quindi in questo senso il Salmo 2 è profetico. Guarda avanti a chi compirà l'essere re perfetto, Cristo Gesù. E quindi vuole dare una dimensione profetica a tutto il libro. Ritornando al Salmo 1, quindi, il Salmo 1 ci dà una chiara indicazione di quello che tutto il libro sarà. E quindi voglio fare 3-4 osservazioni, vediamo il tempo che ci rimane. 3-4 osservazioni su questo Salmo. Già ho capito che devo fare due messaggi solo sul Salmo 1. Se andiamo avanti così, finiamo veramente poi quando ci rivediamo in cielo, magari. Quindi lo facciamo là col Signore stesso. Però vorrei passarvi tre aspetti principali, sperando di arrivare soprattutto al fulcro e al nucleo di questo messaggio. Quindi siate pazienti, seguitemi un attimo. Il primo è beato l'uomo che fa questo, ma non beato, non benedetto, non buono, non felice, non prospero quest'altro uomo. No? È chiaro questo? Questa è l'immagine che il Salmo 2 ci dà, il contrasto fra questi due uomini. Uno è beato, felice, prospero, buono, gagliardo, questi sono tutti sinonimi di questa parola, e l'altro invece no. E l'altro non solo segue dei consigli sbagliati, ma li dà pure agli altri e li proclama pure. Si siede in compagnia degli schernitori. Gli schernitori sono quelli che dicono poi il male e il peccato, gli danno voce al peccato. Quindi questo è un contrasto fra queste due realtà, fra questi due tipi di uomini. Questi due tipi di uomini ci accompagneranno in tutti i salmi. In tutti i salmi ci sarà la lotta fra questo due tipo di uomo. Ci sarà il giusto che dirà: Signore, quando mi libererai dal mio nemico? Io ho bisogno di te, ho bisogno di essere liberato, perché sono caduto in vie malvagie, perché il mio nemico, il malvagio, mi sta contro. No? Ricorda alcuni salmi questo? Lo ritroveremo in tutti i salmi, questa lotta fra l'uomo buono e l'uomo cattivo, il scegliere una via e il scegliere l'altra. È bellissimo vedere che il beato è beato perché è beato. È beato perché è beato, cioè l'essere beato, l'essere benedetto, non è una cosa che ti guadagni, è una cosa che il Signore ti dà. È camminare in relazione con Lui, è conoscerlo, accettare la sua grazia ed essere beati per quello. Per questo ti radichi nella sua parola, perché lo ami. Non ti sei guadagnato nulla, hai ricevuto tutto. Per questo sei benedetto, per questo sei beato. Questo è il beato, e lui è come questa pianta rigogliosa, forte, sana, che porta il frutto quando deve. È una cosa meravigliosa, è una cosa bella, è un'immagine. Questa è la poesia, no? Con un'immagine di un albero ci ha dato una cosa bella da guardare e ammirare. L'uomo bello è quest'albero. Non così l'empio. La cosa bellissima di questa contrapposizione è che l'empio, anche guardando ai versetti, l'empio è brevissimo il commento sull'empio, no? Non così l'empio. Anzi, è come pula che il vento disperde, punto. È una cosa usa e getta, è una cosa facile da scartare. Facile, basta il vento e la pula se ne va, via, chiuso, punto. Piccolo, mi piace. E invece l'uomo beato è bello, è rigoglioso, è come un albero. È tutto quello che fa prospera. Quanto del mio e del tuo rincorrere è fatto per trovare prosperità? Quanto dell'alzarsi la mattina, andare là, perché voglio essere felice, perché voglio prosperare, perché vorrei quello per me, per la mia famiglia, per i miei bambini. Il Salmo 1 ci dà il segreto alla prosperità in ogni cosa, non in una cosa, in tutte le cose, bellissima questa cosa, in tutte le cose. Questo è il beato. Da qui dobbiamo partire, da questa immagine proiettata. Dobbiamo partire perché, che, come ho detto, ci accompagnerà per tutto il libro e lo seguiremo per tutto il libro. Ma da qui noi dobbiamo partire, fratelli e sorelle. Il beato non si fa influenzare, non si fa influenzare, non cammina, non si ferma, non si siede, non si fa influenzare dal nemico, non si fa influenzare dal peccato, non si fa influenzare dalle cose brutte. Da che cosa si fa influenzare? Dalla legge. Questa è l'altra contrapposizione. Il buono e il cattivo, la legge del Signore e il consiglio degli empi, cioè cosa ti consiglia l'empio di fare. Questa è l'altra contrapposizione. Questo vuole essere il fulcro, il punto principale di questo messaggio. La sua parola, ma nella legge del Signore il buono, il giusto, il beato si diletta, ama questa cosa, la ama con tutto il cuore, la ama. Che cosa? La legge del Signore. la legge del Signore, un termine un po' pesante, come fai ad amare la legge del Signore? In realtà questa parola è bellissima, perché il termine dall'ebraico, perché Galati era greco, adesso siamo passati all'ebraico, Vecchio Testamento ebraico, il termine originale dall'ebraico è Torah. E Torah si diceva anche per il Pentateuco, per i primi cinque libri della Bibbia, però il significato principale non era il regolamento o la legislazione, no? Legge 1, fai questo, legge 2, fai questo, legge 3, non fare questo. Torah non significa questo, c'è anche questa parola, ma nel Salmo non c'è questa parola. Torah significa insegnamento, guida, o ancora meglio, rivelazione. Rivelazione. La legge dell'Eterno, in questo Salmo qua, sapete che cos'è? È il Signore che apre il suo cuore e fa vedere chi Lui è. È Lui che dice, io sono questo. Ama questo, perché qui io sto facendo vedere chi io sono. Non solo chi io sono, l'abbiamo detto prima, i salmi sono istruzione. Non solo istruzione su di chi Dio è, su chi sei tu e su come funziona la vita. E il Salmo dice, il buono, il beato, si diletta, ama, cosa? Il conoscere Dio. E il fatto che Dio ci persegue per avere una relazione con noi. Questa era la rivelazione principale della sua parola. Leggila, perché in questo libro non solo ti dice chi lui è, non solo ti dice chi tu sei, ma il fatto che ti ama e ti vuole amare, ti rincorre con tutte le sue forze perché ti vuole. In questo il beato si diletta. È per questo che io dico, a prescindere da quello che ci sta davanti, a prescindere dalla transizione che noi stiamo vivendo, se noi ci radichiamo in questo libro, i nostri giorni migliori ci saranno davanti, saremo quell'albero, fratelli e sorelle, avremo quella prosperità, perché sapremo chi siamo noi, come funziona la vita veramente e soprattutto chi è il nostro Dio sovrano. È questo che ci dice i Salmi, è questo che ci dice tutta la parola di Dio. Sapete, vita risponde a vita. Tutto questo ha un senso molto logico, almeno per me. Vediamo se mi riesco a spiegare. Dio è vita. Siete d'accordo su questa cosa? Fate così con la testa se siete d'accordo, anche per vedere se siete svegli ancora. Allora, Dio è vita, d'accordo? Sceglie di rivelarsi attraverso la sua parola. Lui si rivela, si apre, ci dà questo. Noi piantine, ci radichiamo in questo libro. Non si dovrebbe salire mai sulla Bibbia, però... per questa metafora, è come l'albero che mette le radici nella sua parola, prende il nutriente da quello, e che cosa succede? Alla pianta che si radica nella rivelazione della vita, diventa vivo, no? Dio è vita, si è rivelato in questo libro, la sua parola, io mi cibo di essa, che cosa succede a me? Divento vivo. Non così col consiglio degli empi, ma nella sua parola, sì. Per questo, se noi ci radichiamo in questo libro, i nostri giorni migliori ci stanno davanti. E la cosa più incredibile, fratelli e sorelle, è che il Signore ha scelto di rivelarsi. Perché se non avesse scelto di rivelarsi, ha voglia noi a cercare di capire chi Dio è, chi siamo noi e che è il mondo. Lo vediamo come va, sempre in peggio. Di male in peggio, ma è Dio, in tutta la sua bontà, ha scelto di rivelarsi. Si è rivelato attraverso la sua parola, la Bibbia, per questo facciamone tesoro, non so più come dirvelo. Leggiamolo, preghiamolo, meditiamolo, amiamolo. È un tesoro inestimabile, fratelli e sorelle. Questo è il nostro tesoro, leggiamolo. Ma non solo Dio ha scelto di rivelarsi attraverso la sua parola. Sentite quello che Gesù ha detto. Giovanni 6, il versetto non lo ricordo, però poi magari ve lo passo. Sentite cosa dice Gesù in Giovanni 6. È lo spirito che vivifica. È lo Spirito di Dio che porta, che ti dà vita. La carne, il consiglio degli empi, malvagi, non hanno alcuna utilità. Ascoltate adesso. Le parole, non le cose che ho fatto, non le mazzate che vi ho dato, non i miracoli che ho fatto. Senti, le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Le parole che io ho detto sono spirito e vita. Le parole, quelle parole sono contenute in questo libro. E quelle parole sono spirito e vita. Il Signore si è scelto di rivelarsi in questo libro per dare spirito e vita. Tu e Dio, che ne facciamo? Tu e Dio, che ne facciamo? Non solo Dio poi si è rivelato attraverso questo libro, ma si è rivelato attraverso la parola perfetta. Oh, ricorda qualcosa, Giovanni 1:1? La parola era con Dio, era fatemelo leggere bene, che mo mi sembro liano. La parola, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e verità. La rivelazione perfetta di chi Gesù è, di chi tu sei e come funziona la vita è in Cristo Gesù. Chiudo questo punto così. Fratelli e sorelle, se noi attingiamo, prendiamo, ci cibiamo per fede dalla parola, dalla Bibbia, da questi libri, dai salmi, il punto, dai salmi, dobbiamo attingere dalla parola, perché la fede viene dall'udire. Udire cosa? La parola. Fratelli e sorelle, se noi attingiamo, ci cibiamo da questo libro, noi ci attecchiamo, ci arrampichiamo, ci uniamo a Cristo Gesù. E lì sarà la vita. E lì sarà la vita. Se sei questa sera, per la prima volta qui, o la seconda volta, mi dispiace per te, no, scherzo, se non hai mai sentito un messaggio così, se questa è la prima volta che senti qualcosa del genere, o la seconda, la terza, inizia, però, fai una cosa. Medita le parole che stai ascoltando in questo momento. Ascoltale, nutriti da esse, perché ti daranno vita, e vita vera. Amen? Fratelli e sorelle, a prescindere dalla situazione in cui ci troviamo, da quello che stiamo vivendo, se ci radichiamo in questa parola, noi porteremo frutto, saremo sani e prospereremo in ogni cosa. Ultimo paio di cose. C'è scritto si delizia, il giusto, il buono, si delizia. Qui è di nuovo la poesia, no? Queste parole io sono handicappato, non l'avrei mai usata questa parola. Da dove l'ha presa? Sì, qui è tutta la poesia, non la legge soltanto, non è una cosa metodica, non è una cosa religiosa, non è una cosa che fai ogni tanto o fai ogni giorno per abitudine. Il buono si delizia, la ama questa cosa, vedete tutta la poesia, tutto il sentimento che c'è dentro, è bellissimo, io amo questa cosa perché mi porta vita, si delizia. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a deliziarci di questo libro, non solo a viverlo per abitudine o per metodicità, ma siamo chiamati ad amarlo, non solo, siamo chiamati anche a meditarlo, tutti e due, il beato, non solo si delizia, ama questa cosa, ma la medita. Ricorda molto Romani 8. Molto Romani 8. Che cosa fanno i malvagi, gli empi peccatori? Pongono i loro pensieri, pensano alle cose della carne. Ma chi cammina per lo spirito pensa alle cose dello spirito. Non sta scritto canta, non sta scritto prova, non sta scritto predica, sta scritto pensa a queste cose. Fratelli e sorelle, siamo chiamati ad amare questo libro. Siamo chiamati ad avere affetto, profondo affetto per questo libro, ma siamo chiamati anche a pensarlo, anche a sforzarci, anche quando non mi si venga a dire vabbè Gianlu, tu hai studiato, vabbè per te è facile. Allora, prima di tutto sono un diplomato del Santarella e che questo si sappia una volta per tutte. Per tutto il rispetto per la scuola Santarella, non sono portato e non lo sono mai stato. Però a parte questo, io conosco alcune, non faccio nomi per rispetto, sorelle in mezzo a noi che forse hanno la quinta elementare e la amano, la meditano questa parola e me la citano a memoria ogni volta che le vedo e la vivono e porta vita in loro. Allora dici, io non ho studiato, Gianlu, non posso. Non può essere una scusa. Amala e pensala. Leggi una volta, due volte, tre volte, quattro volte, dieci volte. E forse non ti verrà subito, come parlavo con qualcuno stasera, forse ti verrà un po' più in là, ma ti parlerà e ti porterà vita. Riuscirà a farti esprimere i tuoi sentimenti e li plasmerà in immagine e somiglianza di Dio. L'ultima cosa che il beato fa, lo fa giorno e notte. Non lo fa ogni tanto, non lo fa quando si ricorda, non lo fa quando gli va, lo fa giorno e notte. E qui anche qualcuno di voi potrebbe dire, Gianlu, vabbè, facile per te, tu sei a tempo pieno, hai tutto il tempo che vuoi, grazie. Anche qua c'è poesia, perché anche io che sono a tempo pieno non ci riuscirei a farlo giorno e notte. Cioè, pure io mangio, dormo, vado in bagno, quindi giorno e notte è proprio difficile. Qui la poesia viene in aiuto di nuovo, esagera una cosa per dirci a tutti quanti noi, non solo a chi è tempo pieno, a tutti quanti noi, in ogni tua situazione, in ogni tuo momento della tua giornata, in ogni cosa che fai, pensala. Allora inizi i primi 15, 20, mezz'ora, minuto della tua giornata nei salmi, nella parola, e poi il resto della giornata portatelo con te in ogni situazione. Giorno e notte significa questo, davanti a ogni situazione, in ogni circostanza della tua giornata, porta la parola. Darà vita a te, ti renderà quell'albero sano e forte, e non solo, ti farà portare frutto, sarai un'influenza verso gli altri, con la verità, con i giusti sentimenti, parlando dei salmi, con i giusti sentimenti, con le giuste istruzioni su chi Dio è, su chi siamo noi e su chi è la vita. I salmi sono una cosa bellissima. E non solo i salmi, tutta la parola è una cosa bellissima, fratelli e sorelle. Radichiamoci in essa, saremo quell'albero. Concludo dicendo, il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Gli empi sono pula al vento, dispersi, usa e getta. Oggi ci sono, domani non ci saranno più, in un batter d'occhi. Ma se noi ci radichiamo in questo, se noi la amiamo, se noi la meditiamo, se noi la prendiamo e la facciamo nostra, non solo, fate attenzione, non solo conosceremo Dio, ma questo versetto, l'ultimo versetto del Salmo 1 dice: il Signore conoscerà la via dei giusti. Non solo conoscerà il Signore, ma il Signore ti conoscerà. Non solo potrai dire, io conosco Dio, la sua bellezza, quello che Lui ha fatto per me, per l'umanità intera, ma potrai dire una cosa ancora molto, molto, molto più bella. Lui mi conosce. Lui conosce il mio nome. Lui sa chi io sono. Lui sa che io so, che io conosca Dio è già più facile, perché Lui è l'essere supremo di questo universo, tutti lo dovrebbero conoscere così, ma questo essere supremo, meraviglioso, perfetto, amoroso, pieno di amore, conosce me, me che non so niente, mi conosce. Se amiamo questo, se lo meditiamo, se non facciamo nostro, se lo mangiamo, se lo leggiamo, se lo recitiamo a memoria, se lo cantiamo, facciamo qualsiasi cosa, fratelli e sorelle, noi saremo quell'albero. che sarà sano, sarà forte, porterà frutto e prospererà in ogni cosa. Capite bene che a prescindere dalla situazione che ci sta davanti, da soli o come chiesa, in questo momento delicato di transizione, se noi ci radichiamo in questo, i nostri giorni migliori ci stanno davanti. Allora io prego per una cosa, e che possiamo iniziare insieme come chiesa una cosa meravigliosa con il gruppo di lode, col gruppo di lode che adesso è qui, perché sto facendo tardi, e tutti quanti insieme possiamo iniziare una nuova stagione nei Salmi e nella sua parola intera. Io ti sfido questa sera, se riconosci: non ho speso abbastanza tempo, non l'ho amato abbastanza questo libro, non l'ho riconosciuto abbastanza, non mi sono sforzato abbastanza per pensarlo e meditarlo, prendi un impegno questa sera, prendi un impegno concreto, facciamolo insieme, perché non basta che lo faccio io, non basta che lo fa il pastore, non basta che lo facciamo come squadra pastorale. In questo momento delicato lo dobbiamo fare tutti, fratelli e sorelle, perché non possiamo permetterci che un ramo di quest'albero sia poco sano. Che cosa succede ai rami poco salmi? Per andare a Giovanni 15, viene tagliato e buttato via, e noi non vogliamo questo. Radichiamoci nella sua parola, che una nuova stagione possa iniziare in mezzo a noi, radicati nella sua parola. Amen. Ci alziamo in piedi. Signore Gesù, veniamo davanti a te e prima e più di tutto ti ringraziamo perché tu hai scelto di rivelarti a noi. Padre, se non l'avessi fatto, noi saremmo nel buio più totale. Ma Padre, lode a te perché tu hai scelto di farlo. Tu lo hai fatto, Signore, e io ti ringrazio per questo, e io ti lodo per questo. Ma Padre, io prego che io e noi come sposa, tutti quanti qua, questa sera, la tua chiesa, non possa dar per scontato il fatto che tu hai scelto di mostrarti per chi sei. Ma Padre, che con tutte le nostre forze, con tutto il nostro amore, con tutto il nostro diletto, con tutto il nostro impegno, possiamo prendere il libro e incontrarti in esso, Padre, per fede possiamo leggerlo, Signore, affinché lo Spirito Santo lo possa portare a vita per noi e noi ne possiamo ricavare vita, Signore. Padre, io prego per una stagione nuova per questa Chiesa, in questo momento, per ognuno di noi. Padre, io prego contro le macchinazioni del nemico che vogliono distrarre, che vogliono impedire, che vuole venire con le sue menzogne e dire: non siamo in grado, non siamo abbastanza bravi, non siamo abbastanza così o colà. Padre, nel nome di Cristo Gesù, io prego per la tua protezione e per porte aperte affinché possiamo immergerci nella tua parola e conoscerti. E Padre, io prego per coloro che sono qui questa sera e non ti hanno conosciuto come Signore e Salvatore. Padre, in questo momento dai a loro la tua fame, la tua fame per la tua parola, Signore, che questa notte non possano dormire per tutta la notte perché leggono e ti incontrano. Signore, abbiamo bisogno di incontrarti, per questo come impegno vogliamo prendere di venire alla tua parola, Signore Gesù.